La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Tony e Santi. Buonasera a tutti, buonasera a tutti dagli studi di CRM Peer Radio da Tony e Buonasera da Santi. Settimana pienissima questa settimana di lavoro, a me intensa, almeno per me, Santi, poi non so per te. Mettiamola così, dai, diciamo un sì, ni. Allora, come dicevamo prima, ben sintonizzati, appunto la nostra frequenza è su 101.4 di CRM Happy Radio, nuovamente qui insieme, nuovamente con la nostra musica, la musica dei mitici anni, degli anni 70, 80 e 90. Resteremo qui circa due ore, sì, più o meno. Santi, tutto a posto? Tu? Sì. Allora siamo nuovamente qui per questa puntata del 15 settembre, metà di settembre. Domani iniziano le scuole, ragazzini in palpitazione. Ho visto delle facce non proprio felici, barbieri pieni, perché non me ne vogliono quelli delle tasse, per carità, non c'entra niente. Però barbieri pieni venerdì e sabato, perché di sistemazione e tosatura prima del rientro a scuola, le capigliature, le zazzere che vengono ridimensionate ad uso scolastico onde evitare grossi problemi con il corpo docente, e i ragazzini non certo felici, perché cominciano a capire che l'estate ormai per loro è presto a poco finita. Quindi domani mattina, stasera si va a letto presto, mi raccomando ragazzi, domani mattina lì a prepararsi di corsa con le ultime cose, le ultime preparative, e poi diritti a scuola, giusto per conoscere i nuovi compagni, se ce ne sono, per chi va nelle nuove classi, o giusto per rincontrare tutti i compagni dell'anno scorso. Quindi in ogni caso qualcosa di piacevole. Io ricordo ai nostri tempi, circa due guerre puniche fa, quando stavamo nel primo giorno di scuola, per me sì, quando iniziavamo il primo giorno di scuola stavamo lì con quella, come dire, l'entusiasmo prima, e poi cominciavano i soliti problemi, il solito patema, la solita stanchezza cronica che ci portava lì a biascicare quattro zampe giusto fino al banco, tipo ultimi metri. Beh, comunque non resta che altro che appunto augurarci ai nostri bimbi, ai nostri, appunto, oppure a tutti i bambini comunque, di cominciare quest'anno scolastico. Quindi un buon anno scolastico, qua pare siamo sponsorizzati dal Ministero dell'Istruzione, niente di tutto questo. A proposito, noi non abbiamo sponsor, possiamo dirlo, siamo qui per tenere compagnia ai nostri radioascoltatori, ai nostri amici, che per fortuna sappiamo, abbiamo il segno tangibile che stanno aumentando notevolmente, non lo so, a quanto pare che la nostra compagnia sia piacevole. Dicevo, siamo qui a tenerci tutti compagnia, giusto per passione, non abbiamo sponsor, come voi sapete, quindi non ci aiutiamo da soli, ci bastiamo da soli, perché no, va bene così. Ok, io direi di partire con il primo brano che abbiamo. Stasera tutto italiano, una scelta di Tony, no, questa. Una partenza tutta italiana, sì. Questa volta ho voluto prendere la lista, diciamo, le ultime. Cominciamo dall'ultimo, ho detto, non dalla prima. Normalmente gli ultimi saranno i primi, appunto. Sì. L'ho sentito dire da qualche parte. Bene, è la volta di Vasco Rossi e il brano Ogni Volta. Ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino, ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non me ne accorgo, ogni volta che viene giorno, e ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'entra niente, ogni volta. E centro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente, e ogni volta che dopo piango, ogni volta che rimango con la testa tra le mani. A domani. La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Tony e Santi. We'll be right back. bella musica stasera qui a CRM per i mitici anni. Era un bel successo di Van Halen di tanti anni fa, Jump. Continuiamo con la musica. Sì, la musica del 1986. È 1986. Un archivio vivente, Tony, complimenti. È un brano del 1986 che abbiamo ripescato e che ricordiamo con tanta simpatia. Era un brano che ci faceva ballare tantissimo. Sì. E quindi vogliamo riproporlo qui per questo programma anticrisi, poi vi spiegherò perché, di CRM a P-Radio. Noi andiamo un po' controcorrente. C'è la crisi? Bene, noi remiamo contro e poi vi spiegheremo il perché. È un programma anticrisi di CRM a P-Radio. I mitici anni. Miss Tracy Spencer. Un successo di tanti anni fa che si intitola Run to Me, ancora qui su CRM Happy Radio. siamo sempre noi i mitici anni, anzi siamo sempre noi Tony e Sante sui mitici anni. Qui su CRMP Radio. Era Tracy Spencer con Run to Me, ancora musica, e abbiamo ripescato un bellissimo disco del 1985. Quattro artisti del calibro di Harry Belafonte, Kenny Rogers, Michael Jackson e Lionel Richie costituirono e raggrupparono 45 artisti statunitensi per un disco a scopo benefico che aiutasse le popolazioni africane. Il gruppo si chiamò USA for Africa, il brano in questione era We Are the World. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Put it La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Tony e Santi. Change your heart. Look around you. Change your heart. Astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Siamo sempre noi, mitici, mitici, Santi e Toni, o Toni e Santi, qua su CRM. Invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia, è sempre scadente, niente paura, vai tranquillo. Esatto. Esagerato, esagerato. Diventa fan della nostra pagina Facebook, cerca CRM Radio e clicca sul bottone Mi piace. 20 e 38 minuti primi, una manciata di secondi, qui a CRM naturalmente, non solo qui. Una selezione musicale totalmente nuova stasera. Abbiamo tirato fuori, abbiamo come dire, riscoperto dei vecchi successi che avevamo messo un po' da parte, che stiamo rivalutando. Sicuramente tanta tanta bella musica, quella musica che ballavamo nelle discoteche con quelle magliette, ti ricordi quelle magliette attillate con la scritta, questa la posso dire perché non c'è più, Fruit of the Loom, c'erano disegnato, sì. O le magliette quelle, questa diciamo solo col coccodrillo, perché esiste ancora, sarebbe pubblicità, anche se lo è insomma in parte, abbiamo capito tutti, il coccodrillo, e c'era la famosa storia che giravano, e allora eravamo ragazzini un po' turbolenti, che la maglietta maschile aveva il coccodrillo in basso. Tony, lo sai? La maglietta femminile aveva il coccodrillo un po' più in alto, la versione femminile, e qualcuno sosteneva che c'era un motivo, era un motivo legato proprio alla conformazione fisica dei ragazzini e delle ragazzine, perché diciamo che sulla parte sinistra della maglietta il coccodrillo in basso, come quella maschile, nel caso della ragazzina avrebbe creato un pericolo, perché questo coccodrillo con la bocca aperta in una zona sarebbe stata tragica. E quante ne pensavamo, ne scogitavamo, giusto per, come dire, per cercare di essere, simpatici, divertirci, perché allora non c'erano gli iPod, non c'erano i computer, erano solo dei grossi cassoni, dei grossi sistemi che servivano a lavorare senza il video, a schede, dischi e nastri, quindi immaginate un po' che divertimento. Fra altre cose con il vecchio sistema MS-DOS, che ancora si lavora con questo, con l'MS-DOS, infatti. Mi ricordo che linguaggi PL1, COBOL, madonna che tempo. Sì. Cassoni enormi che poi erano lentissimi e che riuscivano a fare pochissime cose rispetto a oggi. Oggi un iPod è sicuramente molto più potente di un computer allora. Pensate che un computer allora aveva un grosso sistema, una memoria segmentata di 24 kilobytes. Oggi c'è solo da ridere a dire una cosa simile, ma era così. Ve lo assicuro, perché ci ho lavorato tantissimi anni, erano dei casermoni, delle cose enormi che funzionavano all'interno di camere a vetri, nelle quali la temperatura non doveva mai superare i 12-13 gradi, perché sennò andavano in tilt, quindi eravamo dei pionieri allora. Bene, noi cercavamo, appunto, visto che i computer, gli iPod, tutte queste cose non c'erano, ci inventavamo di tutto veramente, lasciavamo spazio alla fantasia che andava a briglia sciolta, proprio per creare un po' di animazione. Eravamo degli animatori in erba, perché no, diciamolo pure. Che tempi. Belli comunque. Comunque diamo spazio ancora alla musica, è un po' lo scopo del nostro programma, se ogni tanto mettiamo anche qualche cosa così. Per ricordare quei tempi che furono gli 80, 70, 80, 90. Boh, non andiamo molto perché poi siamo diventati più grandetti, quindi non bisogna dirlo quello che abbiamo fatto poi ultimamente, giusto? Tony, comunque, da quant'è che hai stalentina, non ti vedo bene anche attraverso il vetro. Ho capito. Lenti a contatto. Dai. Va bene, ok, continuiamo con la nostra musica, è quella dei Pretenders. Sì, possiamo farli partire, I'll Standing By You. I Pretenders è un disco per l'anno, e Tony, quello specializzato. In che anno siamo? Allora, anno le lentine, 1994. Pretenders. Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. To me now, hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm a lot like you. When you're standing at the crossroads, don't know which path to choose. Let me come along. Santi. Tony, non sognare, per favore. Non sognare. Sai, quella musica, questa musica mi porta lontano. No, lascia stare, perché sennò poi la regia che la fa. non ti preoccupare, Santi. Comunque bellissima. Siamo andati a ripescare appunto questi brani che... Sì, che erano messi da parte sotto il tavolo lì all'angolo. Ti ricordo una volta. Once upon a long time ago. sì, tanto tempo fa una volta. Ti ricordi quando si prendevano i dischi? Doveva venire un'ora prima in radio, appunto, per selezionare. E quando il disco saltava, il disco soffio, ne avevamo tanti, così l'abbiamo ribattezzati soffiare sul disco per far andare avanti la puntina. Perfetto. Quante ne abbiamo viste qui a CRM ai tempi eroici. Bene, continuiamo ancora? Sì, ancora sì. Musica è quella di Tony Braxton. Non sono io. No, tu sei Tony Sachs. Unbreak My Heart. Ok, ciao. Yeah. La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Tony e Santi. Un saluto particolare a tutti coloro che ci stanno mandando appunto degli sms sul nostro 335 5637 251, e poi anche ringraziamo anche gli altri che ci seguono tramite internet sul sito appunto www.crmpiradio.it. Bene, che dire qua, un saluto per tutti allora. Santi, salutiamo, ne approfittiamo appunto per salutare una persona che ci sta al cuore, lo possiamo dire, giusto? Non lo possiamo dire. Rosario Baywatch, chiamato da Sant'Ambrogio, appunto, Re della granita, vero, come lo conoscono tutti. Infatti, no, sappiamo che è il nostro ascoltatore, e quindi abbiamo il piacere proprio di salutarlo, di ringraziarlo per l'attenzione che anche lui ci presta la domenica sera lì nel suo locale. Infatti, a me c'è un'altra persona comunque che ci segue, ne approfittiamo appunto per salutarla anche adesso. Elena, giusto? È giusto così? Ciao. Appunto, ciao. E quindi che ci ascolta sempre dalle 20 alle 22, mi ha detto io vi ascolto sempre. Ah, questo non lo sapevo. Noi siamo ben felici e quindi un grosso saluto e un abbraccio. Infatti, infatti. Grazie. Bene, detto questo, continuiamo un attimo con la nostra musica, con l'ottima musica intanto da noi scelta principalmente, anche da voi comunque, attenzione. Abbiamo rispolverato un vecchio successo di un duo inglese che è stato attivo negli anni 77, un gruppo New Wave. Stiamo parlando dei Buggles, era una canzoncina graziosissima che già dalle prime note riuscirete a riconoscere. Kiddyville del Radio Stars, dei Buggles. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Andiamo a casa. Che sì, faccia? The Buggles con Video Kill the Radio Star. Bella. Quella sì, che ne sa, arriva bellissima. Sta proprio di spazi ampi, di aria, di tranquillità e serenità. La musica di Miss Tina Turner. Un successo del 1984. What logo to thou with thee? You must understand the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than I'm acting.

vento che ci arriverà. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh. La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Tony e Santi. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu. L'estate sta finendo, veramente anche, è finita. E anche la canzone dei Righeira, l'estate sta finendo. È andato via anche l'estate, è andato via anche l'estate. Eh sì, da domani si ricomincia con la scuola. Forza ragazzi, mi raccomando. Eppure poco fa leggevo appunto sul profilo Facebook. Queste proprio... lentine quanto fanno. Beh, leggevi. Appunto una bella frase scritta da un bambino, un ragazzo, diciamo, che sta facendo le superiori, penso. E appunto che diceva: comunque contentiamoci di quello che abbiamo, che c'era qualcuno che si lamentava appunto che iniziava la scuola, che era finita l'estate, a destra e a sinistra, e lui diceva appunto: accontentiamoci di quello che abbiamo oggi, perché domani lo rimpiangiamo. Questo è, ma questo era... bambino di cognome come faceva? Lettino per caso? Lettino, letta. Vabbè, come non detto, no. Si rischia di scivolare, lasciamo stare. Ma infatti, dai. Parliamo d'altro. Parliamo di musica. Parliamo ancora di musica, parliamo di Robbie Williams, ex cantante solista di Tech Debt, che poi ha continuato la carriera in proprio, ha fatto bene, devo dire. Un successo di tanti anni fa, She's the One, Robbie Williams. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. You wanna see, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wind carry on. 'Cause if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me out, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know, yeah. Said what you wanna say, and you know the way you wanna say. You'll be so high, you'll be flying. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me, calling me out, she's the one.

adesso sì, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Io mi ferro l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere pure lei. Se mai vivrò di questa clandestinità per sempre. Fidati che hanno un peso gli anni miei, fidati e sorprese non ne avrai. Sono quello che vedi, io pretese non. Se davvero mi credi, di cercarmi non smettere no. Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente, così poco abili anche noi a non dubitare mai di una libertà indecente. Io sono qui, ti servirò, ti basterò, non resterò una riserva, questo no. Dopodiché, quale altra alternativa può salvarci? Io resto qui, mettendo a rischio i giorni miei. Perché non so tacere mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Comunque, cercami. Cercami. Non smettere. La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Tony e Santi. Leroy Gomez e Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, un successo anche in versione discoteca che abbiamo ballato tantissimo, caratteristico proprio per il battito ritmico delle mani. Tony, ma secondo te questa nave gira o non gira domani? Beh, speriamo di sì che giri questa nave, speriamo domani che cominciano proprio i lavori. Speriamo che sia il giramento giusto, perché se gira dall'altra parte non quelli lo so. Sono guai comunque. Appunto, se il giramento sbagliato è sempre dannoso. Infatti, comunque... Ancora? Dopo tantissimi, quanto tempo è che... Ma è un anno e mezzo. Un anno credo, e mezzo, comunque. Con il famoso inchino di Schittino. Schittino, sì. Vabbè, continuiamo con la nostra musica, quella di Robert Palmer, con Johnny and Mary. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm. The walls, nosy tires easily. Johnny He thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made a bet. Even when the chance was slim, he's willing to learn when he decides he's a fool. Johnny says he'll live anywhere when he owns time to. Mary comes ahead, says she should be used to it. Mary always hedges her bets, she never knows what to think. She says that he still acts like he's being discussed, that he'll be caught without a second thought, running around. Johnny feels he's wasting his breath trying to talk. Says he's lacking a real sense of proportion, so she comes ahead. Knows he tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, says she should be used to it. Stasera richiesta qui al nostro, ai nostri studi di CRM Pi Radio. Ringrazio gli amici che ci chiamano appunto, e ci scrivono sul nostro sito. Qualcosa di italiano adesso? Qualcosa di Raff? Raff che si chiedeva allora cosa sarebbe rimasto degli anni 80, quindi ponendola nel tempo giusto, cosa resterà degli anni 80? Era la voce di Raff. La voce era quando l'ha cantato. Breve fotogramma o treno in galleria è un effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie, dei nostri jeans. Che cosa resterà di questi anni maledetti dentro gli occhi tuoi? Anni bucati e distratti, noi vittime di noi. Ora però ci costa il non amarsi più, è un dolore nascosto giù nell'anima. Cosa resterà di questi anni ottanta? Afferrati e già cosa resterà? E la radio canta una ferita. mondo, un tragico rondo. Noi siamo sempre più soli, singole metà. Anni sui libri di scuola e poi che cosa resterà? Anni di amori violenti, litigando per le vie, sempre pronti io e te a nuove geometrie. Anni vuoti come latine, abbandonate là. Ora che siamo alla fine noi di questa eternità, cosa resterà? Era Raff con Cosa resterà degli anni Ottanta, cos'è che... rimasto di questi anni Ottanta? Siamo rimasti noi degli anni Ottanta. Altro che. Ti pare poco? Comunque. Bene, molto traffico, anzi, come diceva Johnny Stecchino, per rivangare qualcosa che abbiamo tirato domenica scorsa qui negli studi CRM, molto traffico telefonico, molto traffico per quanto riguarda i nostri ascoltatori che stanno qui a interloquire con noi, a farci delle richieste musicali. Per quello che possiamo cerchiamo appunto di soddisfare un po' tutti. A proposito, per chi volesse mettersi in contatto con noi, il numero l'avete già sulla rubrica del vostro telefonino, basta cercare alla lettera E, andare sotto la voce esauriti e quelli siamo io e Tony qui. Ecco perché non volevi presentare. ho capito tutto. Ancora musica? Sì, ancora musica. Ancora musica italiana? Sì, e comunque volevo dire un'altra cosa io. Oltre a appunto a scrivere gli sms sul nostro numeretto magico che è il 335 5637 251, scrivete anche sul mio, ho visto, però mettete gentilmente alla fine il nome perché non so di chi si tratta. Comunicazione di servizio, ecco. Andiamo con la nostra musica. Sì, la nostra musica. La volta di Neck, Se io non avessi te. Ancora Neck su CRM Happy Radio. sei la prima che fa un viaggio dentro me e poi non molla mai. Se io non avessi idee, che alternative avrei? Qualcuno ha detto già che non funzionerà, ma io non cambio idea, do retta solo a me, scelgo e riscelgo te. Sai che amarti non è mai abbastanza, è che tu sei tutto quello che mi manca. Dimmi un po', dimmi cos'altro c'è. Se io non avessi te, se io non avessi te, forse vivrei a metà. E un uomo chiuso in sé vegeta e non lo sa. E se non dai non hai, e ti convinci poi che solo non ce la fai. Sai che amarti non è mai abbastanza, è che tu sei tutto quello che mi manca. E così come una scheggia a te, sei entrata dentro me. Dentro me. Se io non avessi te, la musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Tony e Santi. How could you leave me when I needed to? era l'ultimo brano in programma anche per questa serata, per questa domenica 15 settembre. È puntualissima, arriva la nostra sigla. Senti, sta arrivando. Eccola qua. Bene. Bene, non ci resta che ringraziare tutti per il cortese e prezioso ascolto. Fare un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi e ragazzini che da domani ricominceranno quella loro avventura scolastica. Un grazie anche ai ragazzi che cominceranno il nuovo anno scolastico, praticamente dalla scuola media, che stanno passando alle superiori, oppure dalle scuole elementari appunto alle scuole medie. Come sei preciso, Tony? No, perché vedevo scritto qualcosa appunto su Facebook, che c'era veramente come sarà la scuola media, come saranno le superiori, tutte queste cose qua, vedevo un po' di... Ringraziamo in particolare la nostra vicina qui di studio, lei di casa, noi di studio, che ci ha cucinato addosso per tutta la serata, deliziandoci con gli effluvi della cucina. Complimenti, signora, grazie. Bene, appuntamento per quanto mi riguarda domenica prossima, ore 20, sempre per il programma Anticrisi di CRM. È successo qualcosa. Il programma anticrisi, no Tony, me lo fai apposta. Il programma anticrisi di CRM, i mitici anni, il programma che vi propone la musica degli anni 70, 80 e 90, la più bella musica di quegli anni. Quindi il nostro appuntamento rimane per domenica prossima alle 20, sempre sulle frequenze di CRM Pirradio. Il telefono continua sempre a squillare, comunque abbiamo finito. C'è traffico. Ok, una buona serata a tutti, una buona nottata, e mi raccomando, domani bimbi e bambini e ragazzi, mi raccomando, siete bravi come primo giorno di scuola. Tony, lo zainetto ce l'hai pronto? Tutto pronto, ok. Mi raccomando. Ok, vi auguro una buona serata, una buona nottata, a risentirci a domenica prossima. Ciao. CRM Happy Radio, la tua radio. Fuori controllo. Una distrazione, un'aberrazione, un giubbotto di...